Questo brano di Matteo, capitolo 16, versetti 1-12, contiene tanti insegnamenti, compreso questo del capire quali sono i segni dei tempi, ma io volevo soffermarvi solo su una frase, su questo lievito dei farisei e dei sadducei, di cui Gesù dice che noi dobbiamo guardarci. Semplice la frase in sé per sé, ma oggi che cosa vorrebbe dire per dei cristiani di guardarci dal lievito dei farisei e dei sadducei, ma di stare attenti invece all'insegnamento di Gesù? E vuol dire stare attenti all'insegnamento del Vangelo, solo il Vangelo, non quello che altri maestri, come possono essere i farisei e i sadducei di oggi, vanno dicendo. Per me, guardate, è chiarissimo l'insegnamento del Papa, e io sono proprio figlio della Chiesa ambrosiana con il mio vescovo, perché Sant'Ambrogio, che è morto nel 397, quindi sono passati un po' di secoli, aveva una frase in latino molto semplice, molto facile: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Dove c'è Pietro, lì è la Chiesa. Amici, perché andiamo oggi seguendo in internet, seguendo in tanti messaggi che ci arrivano sul cellulare o per posta elettronica, altri maestri che guarda caso dicono che il Papa sbaglia? Ma voi fate quello che volete, seguite chi volete. Io sto a questo insegnamento di Gesù: state attenti al lievito dei farisei e dei sadducei. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Tra l'altro, che parla così è tanta gente che non legge e non ascolta quello che dice il Papa. Per esempio, io ho ascoltato un bellissimo discorso che ha fatto in Thailandia. Non so se voi le avete seguite queste cose. Bisogna seguire quello che dice il Papa, non quello che dicono i commentatori. Il Papa, parlando ai vescovi, diceva, in questo paese di missione dove i cristiani sono pochissimi, la missione scaturisce solamente dallo Spirito Santo, non scaturisce dall'organizzazione. Quante volte noi invece abbiamo questa mentalità, no? Costruiamo grandi strutture, gli oratori con le piscine, i campi da tennis, così attireremo i giovani. Ma cosa attiri? Don Bosco è partito con una catapecchia. Tutti i santi sono partiti con niente. È lo Spirito Santo che suscita la missione della Chiesa. La Chiesa fa bene avere la sua struttura, è giusto, ma guai se dimenticasse l'attenzione allo Spirito Santo. Ditemi voi un santo che è stato programmato in laboratorio. Ditemi voi un santo che è venuto fuori dalle università e dagli studi teologici. Non ce n'è uno, vengono fuori tutti dallo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo mi va a cercare in un governatore milanese, un Ambrogio? Lo Spirito Santo va a cercarmi in un guerriero ferito a Pamplona, Ignazio di Loyola? Lo Spirito Santo va a cercarmi un ragazzino delle colline del Monferrato, San Giovanni Bosco? Ma seguiamo lo Spirito Santo, amici. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. E casomai, se qualcuno volesse proprio essere ancora più convincente, io dico una cosa: noi siamo a Milano e io mi rifaccio al Vescovo di Milano. Quando il Vescovo di Milano scriverà qualcosa contro il Papa, io crederò a quello che il Vescovo di Milano ha detto. Ma finché sono gli altri, fossero anche vescovi o cardinali, ma che non sono il mio, ti risponderai semplicemente come dice un bambino al suo papà: papà, faccio queste cose? No. Ma i miei amici fanno così, loro a casa loro facciano quello che vogliono, a casa nostra si fa così.